Il sorriso di un bambino. Vorrei viaggiare in una favola da sogno, nel mistero, l'avventura, emozioni nuove ogni giorno. Un parco è tutto questo, è un'osi di magia, tutta per noi. Noi siamo contagiati dalla pazmania, rimedio per la noia che ci fa stare bene. Noi siamo conquistati dalla pazmania, per vivere la gioia di stare tutti insieme. Fuggire dalla quotidianità verso un mondo colorato che mi porti in paradiso. Vorrei l'incanto che mi dia serenità in un tempo senza fine che purtroppo prima o poi svanirà. Un parco è tutto questo, è l'isola che c'è tutta per noi. Noi siamo contagiati dalla pazmania, farmi contagiare dalla pazmania, rimedio per la noia che ci fa stare bene. Noi siamo conquistati dalla pazmania, divertente tornare, volendolo fare, bambini perché, può batterci forte il cuore, è una sensazione di felicità.